Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Globetrotter 24. Buon pomeriggio anche a te, Annarita. Buon pomeriggio a te, Valeria, e ai nostri ascoltatori. Anche questa volta vi porteremo in giro per l'Italia e per l'Europa. E allora i nostri titoli. Fuori dall'Italia, nella Marsiglia di Zola, Napoli di Francia. In Italia invece andiamo in Veneto, dall'Osteria Senza Oste, una lunga passeggiata tra i vigneti. Chilometro Zero ci riporta in Basilicata per visitare i laghi di Monticchio, l'oasi verde vicino Potenza. Chilometro Zero ancora a sud, Calabria romantica, Chianalea di Scilla. Oh, ma tu souffrance. Valeria, molti si sono innamorati di questa città leggendo i romanzi di Jean-Claude Izzot, che nei suoi noir si è addentrato nei vicoli e tra gli odori di questo posto meraviglioso che è Marsiglia, la perla della Provenza, sempre più un luogo turistico per le sue bellezze, per quello stile di vita molto più slowly rispetto al resto delle altre città francesi. Io sono legata a Marsiglia, che ho visitato più volte perché è la Napoli di Francia, e la trovo in realtà molto molto simile alla nostra Napoli. Per spiegare Marsiglia a te e agli ascoltatori ho parlato con Stefania Nardini, giornalista e scrittrice, che nel 2001 visitò, pensa, Marsiglia sulle tracce di Zoo per scrivere una sua biografia e che poi ci è rimasta per 13 anni. Stefania ha scritto anche un noir ambientato a Marsiglia. Il lavoro su Izzot è una sua biografia romanzata, perché non sarei stata in grado di farlo diversamente, ed è stata editata per la prima volta da Pervisa Pop, e una nuova edizione con degli aggiornamenti è stata pubblicata da EO giusto quest'anno, ed è un libro dove ci sono degli inediti di Izzot, inediti che non sono soltanto inediti per noi italiani, sono inediti anche qui in Francia, nel senso che ci sono delle poesie, dei testi di Izzot giornalista e soprattutto di Izzot Marsiglia, perché poi diciamo non si può parlare di Izzot senza parlare di Marsiglia o parlare di Marsiglia senza parlare di Izzot. Quindi questo amore per questa città mi ha portata poi a studiarla e a capirne la storia, a capirne l'identità, ed è nato quindi un romanzo, un noir diciamo dal taglio storico, perché è ambientato nel 1939, che è uscito un anno e mezzo fa e che si chiama, sempre per le edizioni EO, Alcazar ultimo spettacolo. Alcazar era diciamo il teatro di Marsiglia dove sono passate tutte le grandi glorie del varietà e della canzone, una sorta di luogo che era un tempio, un banco di prova per i più grandi artisti. Oggi è la più grande biblioteca del sud della Francia, e dunque attraverso questo luogo ho ricostruito un po' quella che era la situazione della città negli anni della guerra, negli anni dell'occupazione nazista, attraverso personaggi che in fondo ci ricordano un po' le tracce, la traccia importante degli italiani di Marsiglia, perché Marsiglia direi è una città italiana. Ecco, è una città italiana che ha molti punti di contatto con la mia città, che è Napoli. Io dico sempre che Napoli è una città con un'anima, è come se fosse una persona. Di Marsiglia direi che possiamo dire la stessa cosa. Ma forse mi sono innamorata di Marsiglia perché innanzitutto mi sono innamorata di Napoli, mi sono anche innamorata di un uomo napoletano che ho sposato, ho partorito mio figlio a Napoli, pur essendo io romana. Quindi diciamo questo amore per Marsiglia è venuto proprio per questa sua peculiarità. Marsiglia io la paragonerei alla Napoli degli anni 50-60, perché la città, parlo di Napoli, è cambiata molto purtroppo, anche in negativo, questo dobbiamo dirlo. Diciamo che a Marsiglia esce fuori quel volto napoletano che è la mediterraneità, quindi l'apertura, la spontaneità, questo non avere pregiudizi per alcune cose, questo stare insieme, tant'è che è una città dove convivono direi da sempre 60 etnie, e quindi un porto c'è, il sole pure, il pesce fresco anche, i pescatori che hanno imparato dai napoletani la tecnica della pesca, quando appunto i nostri avi vennero qui perché scappavano dal fascismo, dalla fame, per cercare veramente un piatto di minestra. E quindi Marsiglia è veramente una città napoletana, tant'è che nel 37 un giornalista inglese che andò per intervistare il sindaco di Marsiglia, il sindaco fece una battuta, disse: guardi, però sia inutile che intervisti me, vada direttamente dal sindaco di Napoli, perché tanto qui sono tutti napoletani. Questa cosa è rimasta nella Marsiglia di oggi, nella quale vivi. Noi siamo una trasmissione di viaggi, quindi secondo te qual è l'elemento che deve spingere un visitatore a scegliere Marsiglia? La curiosità e la non banalità. Marsiglia, come scrisse il suono, non è una città per turisti, è una città da scoprire, è una città di cui ci si innamora, in cui bisogna lasciarsi un po' catturare. Marsiglia va vista nei particolari, bisogna lasciarsi travolgere da Marsiglia, altrimenti, ecco, se si immagina Marsiglia come un luogo dove c'è il lusso, dove c'è questa bellezza curata, ecco, non è il luogo, diciamo, giusto. Però io credo che veramente è una città spettacolo, nel senso che veramente è un teatro a cielo aperto, quindi i viaggiatori, i turisti che amano veramente tuffarsi in quella che è la mediterraneità, credo che partire da Marsiglia sia veramente doveroso. Quali sono i posti a cui tu sei più legata e che quindi consigli di visitare senz'altro? Ma il quartiere, l'antico quartiere del Panier, dove ovviamente c'è la traccia dell'antica migrazione, una parte del Panier venne fatta saltare in aria dai tedeschi durante l'occupazione nazista, quindi è rimasta solo la parte alta del Panier. Poi il mare è meraviglioso, ci sono le calanche, ci sono veramente mille spiagge e spiaggette. E poi basta veramente andarsene in giro, e voglio dire, è veramente tutta da scoprire, nel senso che si possono visitare le isole Friul, si possono visitare i musei, si può visitare Villa Mediterranea, che è un'opera meravigliosa, insieme al museo, il grande museo che affaccia sul mare, e neanche a farla apposta è stato realizzato da un architetto italiano. E poi il quartiere dal quale io vi parlo, che francamente quello che, diciamo, un tempo veniva definito un po' bohemien, è Cour Julien, è veramente delizioso perché è pieno di localetti fino a Notre-Dame-du-Mont, dove è possibile pranzare, cenare, ascoltare della musica, vedere delle mostre, andare a vedere dei piccoli festival. Ecco, è la parte, diciamo, anche questa, a parte il Vieux-Port, più vivente e forse più, diciamo, vivace della città, e che vale veramente la pena una bella passeggiata, perché poi è piena di murales ed è piena di mercati. Stefania, quanto è una città per famiglie? Cioè, la consiglieresti per una vacanza per famiglie o per giovani? Tutte e due, perché le famiglie francamente possono trovare delle validissime soluzioni. Per esempio, ecco, basta imbarcarsi dal Vieux-Port con la navetta del comune per raggiungere la plage della Pointe Rouge e passare una bella giornata di mare e vedere Marsiglia dal mare, quindi anche con pochi soldi, perché voglio dire, con 5 euro si ha diritto all'imbarcazione e poi si può utilizzare il metro e altri mezzi. Per i giovani credo che, voglio dire, musica, teatro, cinema, cioè è piena veramente di iniziative, l'estate poi in particolare una moltitudine di proposte. Le isole Friul, tu le hai citate, io ci sono stata quando sono stata a Marsiglia, sembra tra l'altro di calare in un mondo diverso, cioè tutti gli odori, i rumori di una città così vivace, come dicevi tu, come Marsiglia, sembrano scomparire. Marsiglia è proprio così, nel senso che basta allontanarsi, basta andare al mare, quindi le isole Friul, ma anche per esempio Ubud, è la stessa identica cosa. basta usare, tra virgolette, il mare di Marsiglia per ritrovarsi nella natura incontaminata. Voglio dire, le Friuli sono splendide e tra l'altro sono preservate, oppure le Calanche, e sembra veramente di ritrovarsi in un'oasi, per cui quando si rientra poi in città c'è questo shock, tra virgolette, in cui ci si ritrova in tutta la grande bailam mediterranea, e trovo che questo sia straordinario. Ma tu sei stata a Marsiglia? Non sono stata a Marsiglia e ti devo dire che fa parte del mio elenco dei desideri, perché poi negli ultimi anni Marsiglia è stata rinnovata e quindi merita secondo me una visita anche approfondita. Sicuramente, come hai sentito nell'intervista, non solo la città ma anche i dintorni sono decisamente meravigliosi. Invece tu dove mi porti? Io ti porto nel sud Italia per il nostro chilometro zero. Chilometro zero. Anna, ti porto a Chianalea di Scilla, che è un antico borgo, viene denominata la piccola Venezia per la modalità, per il modo in cui queste case sono posizionate, sono poggiate completamente sull'acqua. Chianalea è un paesino proprio arrampicato sulla collina, in alto c'è il castello dei Ruffo che domina la visuale, costruito a scopo militare, l'edificio è stato poi riadattato a uso residenziale dal conte Paolo Ruffo, che nel 1532 subentrò nel feudo di Scilla ai precedenti signori. Dal castello, che adesso è sede di convegni e anche di mostre, il panorama è veramente da spezzare il fiato, perché arriva fino alle isole Eolie e quindi anche la costa siciliana. È un paesino pieno di vicoli che scendono fino al mare ed è uno spettacolo sia di giorno che di notte, tanto che sul sito ufficiale è presentato proprio come un borgo molto romantico, quindi in questo caso adatto, molto adatto alle coppie, forse un pochino meno alle famiglie con bambini. Poi, Anna, che te lo dico a fare, essenzialmente essendo un borgo di pescatori, qui si mangia un pesce buonissimo. Valeria, non dimentichiamo i consigli per chi viaggia con i nostri amici a quattro zampe. La maggioranza degli italiani fa questa scelta. Sentiamo. Daniele Dodaro, ricercatore e co-founder di Squadrati, che conduce ricerche di mercato e ha condotto una interessantissima ricerca di mercato per Royal Canin Italia sulle vacanze con gli animali. È bello vedere che la maggior parte dei proprietari di cani o di gatti comunque sceglie di portarli in vacanza. Sì, è vero, ebbene il 77% dei proprietari di cani porta con sé il proprio cane in vacanza. I proprietari di gatti, il 43% li porta con sé in vacanza, quindi c'è una maggiore propensione certamente tra i proprietari dei cani. Voi avevate condotto ricerche anche in passato, cioè un dato che è in aumento o è un dato stabile? No, non abbiamo un termine di paragone in questo senso, ma anche mi sentirei di dire che comunque è un dato in aumento, anche parlando diciamo con Royal Canin di questa cosa, e si vinceva come un po' di tempo fa, ecco, non, questi dati forse non li avremmo avuti. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Globetrotter 24. Canzone di Massimo Bubola, cantautore e arrangiatore veneto, per raccontarti, Anna, dove ti porto adesso. Per questa meta c'è bisogno di qualche giorno in più. Dalle colline del Cartiz, Prosecco pregiato, partiamo per andare a camminare tra le vigne e andare a visitare centri più grandi come Treviso o più piccoli come Asolo, che è una piccola perla. Non a caso fa parte del club dei borghi più belli del paese, un'associazione che io personalmente non conoscevo, annata nel 2015, 2001, promossa dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il punto di partenza, Narita, non è usuale. Perché? Perché sono andata a cercare il signor Cesare, che è titolare dell'idea dell'osteria senza oste a Valdobbiadene, oltre che essere titolare del casolare dove viene ospitata l'osteria senza oste, ed è appunto un luogo dove si trova sempre una buona bottiglia di vino, qualcosa di buono da mangiare, e ci si serve da soli, lasciando poi un compenso. Sono curiosa. È stata una cosa del tutto casuale. Io ho avuto la fortuna tanti anni fa di acquistare questo posto, che era un po', diciamo così, un po' direi abbandonato, e poi mi sono appassionato nel tenerlo in ordine, e siccome è proprio un bel posto, mi sono detto un giorno: chissà quale emozione può provare qualcuno se arriva qui, che siamo nel cuore del Cartizia del Prosecco, e gli faccio trovare all'interno del vecchio casolare qualche bottiglia da potersi gustare senza che non ci sia nessuno che né glielo propone né glielo serve, cioè come se si prendesse una bottiglia dalla pianta. Un po' come stare a casa propria. Esattamente, proprio come essere a casa propria, però in un posto dove ci si arriva per caso, dove magari si è passati passeggiando, poi, perché è un posto, diciamo, molto bello e la gente ci arriva per caso proprio. Per chi arriva in un posto così, se lei dovesse dare dei consigli su cosa andare a vedere, su come spostarsi, che cosa consiglierebbe? Ma diciamo che quello che io ho creato lì è forse quello che mi sarebbe piaciuto o mi piacerebbe trovare se io fossi in Toscana piuttosto che in Francia, in un luogo magari di turismo enogastronomico. Si arriva in questo luogo, io capisco, magari è difficile un po' immaginarlo, ma è sulla costa, è sulla costa di una collina, che è la collina dei Cartizze, che si affaccia esattamente sulla pianura, poi in lontananza, del fiume Piave, del Montello, di una zona dove c'è stata la prima guerra mondiale. E c'è questo posto che non c'è nulla di costruito dall'uomo per renderlo bello, perché è proprio la natura che lo ha reso bello. Quindi una zona che negli anni 60 e 70, negli anni 80, sembrava un po' svantaggiata, perché essendo collinare, non avendo parecchia pianura, essendo poi suddivisa in tanti piccoli frazionamenti di proprietà, perché qui il terreno è sempre stato trapassato di padre in figlio, poi fra fratelli, e quindi tante piccole proprietà. Quindi non si è potuto negli anni 70-80 del boom economico-industriale edificare capannoni. In quegli anni sembrava quasi una sfortuna. Oggi invece è un grandissimo privilegio, perché abbiamo un territorio che è rimasto come la natura lo ha creato. Quindi tante passeggiate, perché forse è l'unico modo per assaporare appieno quello che anche gli occhi possono regalare. Esattamente sì, qui poi ci sono le associazioni, le proloco, qui diciamo il volontariato è molto molto molto attivo. Ci sono appunto dei percorsi, uno di questi percorsi è l'Anello del Prosecco, e praticamente è un percorso a piedi tutto segnalato, 12-14 chilometri di media fatica, perché è pianeggiante, poi c'è qualche piccola salitina, cioè quello che è, diciamo, la collina. Tra l'altro qui le persone, non è che le proprietà le dividono con recinzioni, con ostacoli, quindi qui si può transitare da una proprietà all'altra liberamente, perché è sempre stato così, e se uno anche cammina nelle vigne non ha la preoccupazione di pensare arriva il proprietario, magari si arrabbia o quant'altro, no? Qui è abbastanza comune e consolidato magari arrivare nella vigna a trovare qualcuno che passeggia. Questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza per poi, diciamo, esplorare un po' la zona, magari allontanarsi anche un po', andare a vedere, non so, dei posti molto belli come sono anche Treviso, Asolo. Sicuramente Valdobbiadene si trova a pochissimi chilometri da Treviso, come lei ha detto, Asolo, Bassano, poi abbiamo le ville di Maser che sono fantastiche, abbiamo Vittorio Veneto che è un'altra zona molto molto bella, abbiamo il paese di Cison di Valmarino con il castello che risale a prima del 1000, che è Castelbrando, veramente un maniero molto importante, organizzato anche per l'ospitalità. Poi c'è questo borgo Cisoni Valmareno, che è fantastico e ha un'associazione di volontariato che è incredibilmente attiva. Signor Cesare, a un certo punto l'oste che non c'è, lei ha deciso di chiudere, mi racconta un po'? Perché Osteria Senza Oste è stata presa di mira per un aspetto meramente vendicativo, cioè io mi assumo la responsabilità di fare delle dichiarazioni che poi sono anche diffuse, per cui insomma sono consapevole di quello che dico, da parte di due funzionari dell'Agenzia delle Entrate. E quindi come conseguenza del mio rifiuto di un verbale bene più importante su un'altra mia società, un verbale di qualche milione di euro, visto che la commissione tributaria mi avevano dato ragione, loro si sono vendicati elevando un verbale all'Osteria Senza Oste, del tutto in modo immotivato. Da lì ne è nata un po' di polemica, un po' di questione, finita sui giornali, e poi lentamente cos'è che mi sono accorto? Che le persone che prima si avvicinavano a questo posto sempre con uno spirito così di ospitalità, di privilegio, di poter disporre di piccoli assaggi, di lasciare un'offerta, ha cominciato a prevalere un'idea che quella fosse un motivo di evasione fiscale. E per cui ho cominciato a notare questo ragionamento. Ah, questo fa questa cosa per non pagare le tasse, se lui non paga le tasse io non consumo e non lascio niente a questa persona, a questa iniziativa. Però poi ha riaperto. Mi sono reso conto che moltissime persone, anche che arrivavano dall'estero, che arrivavano fuori regione, che non potevano sapere di questa mia scelta, quando arrivavano di fronte alla porta chiusa, l'amarezza era altissima. Dopo 5-6 giorni, nella quale credo di aver trovato non meno di una trentina di questi messaggi di dispiacere, ho detto: beh, non può prevalere la stupidità di alcuni e che si traduca poi nel dispiacere di molti, e quindi ho rivisto la mia posizione e ho riaperto la porta. Mi sembra di capire che il posto che lei ha, che lei prepara per tutti quelli che passano di lì, sia particolarmente accogliente anche per i più piccoli, perché è un posto aperto, quindi non ci sono tante convenzioni da dover rispettare. Assolutamente no, non è difficile arrivare lì e trovare qualcuno che ha il cane piuttosto che qualche altro animale, per cui è proprio un luogo aperto e prevalentemente le persone stanno proprio all'aperto. L'ambiente internamente è una stanza di 4 metri per 4 metri, quindi è molto piccola, però ci sono i tavoli fuori, nel cortile, nella terrazza, in mezzo alla vigna. E poi ci sono due animali, ci sono una mucca e una vitella. Tengo questi animali perché? Proprio per ricostruire quello che era il nucleo di vissuto tipico di questo territorio, quindi questo picco casolare con una piccola cucina, una modesta cucina, una camera, il fienile, la stalla, nella stalla i due animali che servivano poi per avere il latte, per poter vendere una volta all'anno il vitello, per consumare l'erba, diciamo, che veniva raccolta nella vigna, per fare la concimazione organica della vigna, quindi con il letame che l'animale produce, e questo è molto piace molto ai bambini. E per i bambini, ovviamente, visto che lì siamo nel territorio del prosecco, del cartizze, non può esserci solo il prosecco e il cartizze, ma sono andato a ripescare le vecchie aranciate in bottiglia di vetro, quelle tipiche che mi ricordo quando io ero bambino e mio papà mi portava con lui a comprare il bestiame e gli adulti bevevano il vino e a me mi davano l'aranciata. E quindi nel frigorifero, nel vecchio frigorifero, faccio sempre trovare le aranciate che mi ricordano quando ero piccolo io. Allora, signor Cesare, non ci vedremo lì perché appunto è un'osteria senza oste, però grazie. Io spero che lei abbia possibilità di venire a Valdoviavole, spero che abbia possibilità di andare a vedere questo posto. Io di solito preferisco non esserci perché certo, la mia presenza, per quanto poco, modifica le emozioni, e invece quel luogo deve essere proprio un luogo di emozioni, per cui quelle sono la priorità. Valeria, uno stile un po' diverso dal solito, forse è uno stile che non ti aspetti in un posto di montagna, non so perché, forse perché io sono di mare e quindi mi aspetto questa socializzazione estrema in un posto di mare, invece la montagna ha questa socializzazione proprio come il mare. Forse il Veneto è anche un po' particolare da questo punto di vista e quindi qui si può assaporare proprio questa convivialità e questa ospitalità che, come ci ha raccontato il signor Cesare, è più autentica proprio perché è senza l'oste. Noi restiamo in Italia, Valeria, io ti riporto in Basilicata. Chilometro zero. Faccio visitare, o meglio ti racconto cosa sono i gemelli del Vulture, perché ci troviamo sul Monte Vulture, che era un antico vulcano oramai inattivo. I suoi due crateri sono oggi due laghi che si trovano a 600 metri di altezza, separati tra loro da un canale che li mette in comunicazione e che riversa le acque dal bacino più piccolo in quello più grande. Appartengono al comune di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, e i due laghi, pensa, sono molto famosi perché le loro acque hanno la temperatura più elevata rispetto a tutti gli altri laghi d'Italia. Questo è dovuto ovviamente alla loro origine vulcanica. Quindi, Anna, d'estate ci si può fare tranquillamente il bagno? Sì, perché la Basilicata è l'unica regione italiana bagnata da due mari, attenzione, perché uno erroneamente può pensare che non abbia il mare. Diciamo che chi non è ferrato in geografia pensa che la Basilicata non abbia sul Tirreno non si affaccia, invece non è così. Però ha anche dei posti interni, proprio come i laghi di Monticchio, molto belli. Per chi si trova nella zona interna, i laghi di Monticchio sono una valida alternativa al mare, perché, come dicevamo, sono anche molto caldi in quanto vulcanici. Anna, siamo arrivati alla fine, anche questa volta. Anche questa volta tante segnalazioni, ma resteremo ancora in questa calda estate con i nostri ascoltatori. E ci resteremo anche grazie alla nostra email globetrotter24@radio24.it, quindi scriveteci, mi raccomando, scriveteci le vostre segnalazioni, i vostri appunti, se dovete riprenderci in qualche caso, in qualche modo. E poi un ringraziamento speciale in regia ad Andrea Roccabella. Alla prossima puntata.